Abbiamo ascoltato in soluzione, anzi senza soluzione di continuità, Laxative Soul dal suo Twist and Disease, e poi abbiamo voluto fare un omaggio, visto che abbiamo insomma tirato fuori direttamente dalle registrazioni appunto trattate, manipolate da Laxative Soul, un momento storico eccezionale insomma per il paese, decisamente insomma traumatizzato e traumatizzante, e appunto uno degli altri momenti, seppur in una chiave estetica chiaramente, ma insomma per molti versi anche il leggendario in termini di attitudine che sembrava impossibile in Italia, se pensiamo ai Crisma, un omaggio dovuto insomma a Maurizio Arcieri, che ci ha lasciato insomma pochi giorni fa, che insieme appunto a Cristina Moser formavano appunto i Crisma, formazione veramente eccezionale del panorama italiano, ma non soltanto l'eccezionalità legata a un punk che si stava trasformando in new wave, in sonorità che di fatto anticipavano di poco, però anticipavano insomma il suono cold wave che abbiamo sentito anche con The progetto di Cathy Tett e Gérard Pelletier, e che abbiamo sentito appunto con Game and Performance. Con Crisma di fatto insomma lo show era tanto legato al così a performance che vuole appunto leggenda, ad esempio Maurizio Arcieri si sia tagliato insomma il mignolo durante una delle performance, insomma in una così momento di virulenza punk, ma soprattutto lo shock dentro un paese come quello italiano legato a Crisma era legato senz'altro alla faccenda che Crisma riuscivano a coniugare sperimentazione sonora con un atteggiamento anche mediatico molto, molto forte, e Maurizio Arcieri insomma in questo senso fu decisamente fuori da quello che erano le portate anche di un punk sperimentale, poi per tanti versi insomma che stava nascendo anche qua a Bologna, insomma, per la parte dell'Arpo Record, ma appunto con Crisma si andava più su quelle modalità situazioniste che, se vogliamo, insomma, possiamo prendere direttamente dall'Inghilterra, non citando il solito Malcolm McLaren, ma anche certe faccende avvenute dopo, come utilizzare mass mediaticamente insomma il linguaggio anche appunto popolare. Allora si può tirare veramente fuori Psyche TV, si possono tirare fuori grandi manipolatori poi appunto anche dello stesso mezzo, appunto dello stesso media, e Crisma furono appunto una situazione anche piuttosto scioccante, sia per questa immagine insomma fuori dai canoni, da qualsiasi canone, sia quello strettamente insomma iconografico politicizzato che quello invece è commerciale, oppure quello ridicolo insomma di un così scimmiottamento anche piuttosto stupido in termini di look del punk voluto insomma, se pensiamo ma adesso non voglio citare noi perché sennò veramente ci mettiamo a ridere, però come dire, come non ricordare ad esempio un'Anna Oxa che insomma faceva la punk alla fine degli anni 70 in maniera assolutamente ridicola, appunto estetizzando semplicemente, poi la sostanza insomma era piuttosto legata alla musica leggera. E con Crisma invece la faccenda si ribalta, appunto c'è un utilizzo piuttosto anche spietato insomma dell'elemento mass mediologico, tant'è che insomma riusciranno anche a sopravvivere a loro stessi addirittura fino ai nostri giorni. Poi purtroppo insomma la dipartita di Maurizio Arcieri, che tra l'altro in maniera un po' sottaciuta, perché insomma c'era il connubio sicuramente produttivo, e l'abbiamo sentito con Black Silk Stalking di Vangelis, che appunto produceva il primo album storicissimo, meraviglioso, del 1977, addirittura Chinese Restaurant di Crisma. Poi abbiamo sentito un pezzo dell'82 invece, dove si producevano di fatto, abbiamo ancora in sottofondo Miami, sentite non soltanto la Cold Wave ma quel suono che appunto anche a Chicago gente come Ron Erdi, che abbiamo trattato nelle scorse trasmissioni dedicate alla Deep e all'Acid, trattavano, non pensando assolutamente che fossero italiani, perché insomma in Italia c'era sì l'Italo Disco un po' successiva alla faccenda di Crisma, ma mai appunto un trattamento così veramente anche allucinato dell'elettronica e del verbo pop insomma dentro questa. E c'è insomma con Vangelis anche si va a trattare Blade Runner, e anche appunto questa era la cosa sottaciuta insomma conosciuta da poco tempo, che appunto Crisma lavorarono insomma di fatto alla colonna sonora di Blade Runner, quindi anche in questo senso ci riportano sempre a uno spostamento che continuano insomma quasi in maniera underground, facendo uscire anche storie di un passato insomma epocale, anche appunto come quello della colonna sonora di Vangelis per Blade Runner poco tempo fa. Insomma ancora le notizie su la loro partecipazione a Blade Runner infatti sono come dire poco ufficializzate, ecco, ma di fatto insomma ci furono, e come sicuramente prendono tanto da Crisma, come d'altronde anche buona parte insomma della Cold che andiamo adesso a trovare con Antonin e poi Ausgang Verboten. Anche qua suono scioccante, lo shock è quello del ghiaccio, del suono che diventa qualcosa di assolutamente appunto agghiacciante, come appunto la grande onda fredda della Cold Wave che ci riporta a un'Europa decisamente dentro la crisi della fine degli anni 70, primi anni 80. For my living. suoni che provengono da un passato che, come appunto forse citando insomma prima Crisma, così torna a, anche così a ricreare forse un immaginario, forse ad aprirne ulteriori, se prima dicevamo appunto con Crisma viene scoperto insomma anche gli altri collaboratori di Vangelis, di Blade Runner e non solo quelli, poi di fatto insomma inventori di molta Cold Wave e di insomma un approccio decisamente tecnoide, oltre che molto interessante in termini di utilizzo situazionista insomma dell'elemento mediatico, e con Anthony e Ausgang Verboten abbiamo ascoltato un suono che è rimasto insomma di fatto dentro i cassetti, anzi dentro le cassette degli anni Ottanta, cose assolutamente legate a ambienti di concerti molto piccoli, di performance veramente iper marginali, ma di sonorità che già veramente spostavano verso il tecnoide buona parte della musica, un'area poi che di fatto, se magari i singoli non sono arrivati a essere prodotti insomma su vinile, e poi di fatto insomma queste cassette passavano in giro, un certo suono, un ambiance insomma si creò, e quindi quell'ambiance poi si è trasformata per tanti aspetti in musica techno e per altri aspetti è tornata, quindi riscoperta nei nostri giorni, addirittura sia Ausgang Verboten che Antonym poi di fatto recuperano queste cassette, questi esperimenti degli anni Ottanta, e li pubblicano negli anni tra gli anni 90, fine anni 90 e anni 0, e in pieno anche un momento di recupero storico di quei tasselli che sembrerebbero anche un po' così ma mancare, e che in realtà appunto ci sono, e come si ritrovano appunto scavando e riscoprendo o scoprendo per la prima volta insomma dei momenti appunto dialettici che creano appunto una sintesi sonora che portano insomma e che spingono verso il futuro, in questo senso lo shock chiaramente sotterraneo, underground, ma crea appunto quello scoppio invece che a livello mainstream poi si sviluppa insomma dopo tante piccole esplosioni, c'è appunto una grande esplosione in superficie. E sicuramente insomma un personaggio che è sempre stato esplosivo, Felix Kubin, che addirittura riprende proprio come hanno fatto questi Deo e Antonym e Ausgang Verboten delle cassette sue, però degli anni Ottanta, dove da ragazzino appunto si giochicchiava con le prime strumentazioni elettroniche già in famiglia insomma regalarono al già geniale bambino Felix Kubin varie giocattolerie elettroniche che proprio in quest'ultimo periodo vengono recuperate dai nastri appunto che registrava, e con appunto queste diavolerie utilizzate in maniera già assolutamente incredibilmente futuristica, e Felix Kubin appunto in quest'ultimo Chrome Dioxide Gedacht Nis, e la cassetta riprende forma, si trasforma in oggetto anche futuribile, soprattutto in un suono che va fuori tempo massimo, ma appunto in una maniera decisamente interessante, con tanto insomma di shock retrattivo. So, meine Damen und Herren, jetzt kommt ein Mischmasch. Da werden einfach irgendwelche Sprachen, Programme, alles durcheinander geworfen. Viel Spaß! Und sie fragen die Kapelle. Могут оказаться незавидными. Eine atomare Katastrophe zu verhindern und eine ökologische. Erklärte Hermann Lübbe für falsch. Millionen verschwinden zu Billionen mit Ketten in den Synagogen-KZ-Führungen dieser Bevölkerung. vollzog sich der Wiederaufbau der Institutionen. Auslese. An der Gegenwart des Nationalsozialismus. Gleich kannst du mich foltern, aber jetzt nicht, ja? Lasst mich nicht sterben. Großartig. Löwe unter den Riegeln. Lion. Mama, auf meinen eigenen Haushalt. Kamilkin. Kamil? Extrem eng. Dinger, Nischen durchgeklettert, wo er eigentlich gar nicht hätte durchkommen können. Aber er ist irgendwie immer durchgekommen und auch mal ganz ruhig und meinte, ich sei jetzt dran und müsse damit klarkommen. Und sei jetzt so und ich könne machen, was ich wollte und ich sollte nicht auf die Idee kommen, ihm in irgendeiner Weise ein Auge auszustechen oder sowas, weil dann würde er mir nämlich meine Augen ausdrücken. Immer nur knapp an mir vorbei. Zum letzten Mal hatte ich solche Träume mit Verlangsamung der Handlung bei mir, beziehungsweise lang, ja, nicht weglaufen können, vor langer, langer Zeit. Und seine Klamotten sind schon zerrissen. Ich merke aber, dass da drunter sowas wie Metall oder so ist, ähnlich wie bei dem ersten Terminator-Film. Scheinbar ist das sein Kuckauge, weil er hat eigentlich zwei normale Augen, aber irgendwo in der Mitte, das weiß ich instinktiv, hat er ein Auge, mit dem er mich sondieren kann und so scannen, weil er kann mich auch auf Entfernung erkennen. Schreit er kurz auf und sagt, das hast du nicht umsonst gemacht. Jetzt werde ich dir die Augen ausdrücken. E abbiamo ascoltato in continuità Felix Kubin dal suo ultimo disco Chrome Dioxid Gedächtnis, dove appunto trattava le sue vecchie cassette, quindi come dire, rileggeva sia un passato che appunto è legato a quel supporto fonografico che chiaramente anche proprio il suo passato, quello appunto di bambino che appunto faceva delle cassette e quindi la manipolazione del nastro, ad esempio il collage che abbiamo sentito all'inizio, ma anche il trattamento sonoro che poi viene chiaramente ripreso in questi ultimi anni di registrazioni così fatte probabilmente in AM, comunque in ampiezza di frequenza più che in modulazione di frequenza, quindi e con tutti quei scricchioli, quei suoni insomma anche abbastanza assurdi che hanno dato anche un immaginario molto forte e così addirittura anche fantasmatico legato alle frequenze insomma radiofoniche e non per forza appunto in modulazione ma anche in ampiezza di frequenza, il famoso AM insomma di qualche anno fa, ancora poi tutto sommato lo potete fare con le navi e con le navi, no, con le navi proprio no, e con le radio, poi oddio c'è anche tutto il discorso insomma della radio amatore che captava insomma segnali da varie parti insomma del mondo, anche appunto dalle navi, le navi forse erano uno dei mezzi più incredibili per captare appunto suoni che provenivano veramente da ogni parte del mondo, poi tra l'altro con un'amplificazione piuttosto particolare che appunto quella legata al fondo oceanico ad esempio e ovviamente anche a tutto lo spazio insomma che sovrasta insomma e chiaramente quindi tutto l'etere e al di sopra insomma dei grandi spazi marittimi ma e anche quelli appunto decisamente eteri appunto di Felix Kubin tra radio collage e appunto frequenze captate, registrate poi appunto manipolate in quest'ultimo tempo e Object ci riporta un tecnoide inglese che però sta a distanza a Berlino che abbiamo sentito insomma con il suo splendido Flatland, chiaramente una porzione di questo bel disco tra l'altro edito dalla Pan e già di fatto la Pan riprende non tanto i suoni anche se poi ci sono anche quelli ma più che altro ed è questa la cosa che forse ci interessa di più l'attitudine di certo noise, di certa cold, di certa proto techno, infatti insomma in questi anni tra progettualità sperimentali da John Wiese addirittura in collaborazione con Evan Parker in produzione con lui Billy Bao, Trevor Wishart, figura, Kate Fullerton Whitman, Ecker, veramente tanti, Hitstick, quindi anche loro, ad esempio con la loro strana mutazione dance, presa tanto da appunto le mutazioni dei primi anni 80. E, Vessel poi appunto continuerà, e siamo quasi in chiusura insomma di questa serata con il suo Punishone, anche egli piuttosto giovane e come Object e Sebastian Gainsbourg e che non c'entra niente insomma con quell'altro francese, quella Serge, e poi tra l'altro il cognome è scritto anche in maniera differente anche se pronunciato più o meno alla stessa maniera. Punishone, disco che esteticamente e anche eticamente appunto prende tanto da certo industrial degli anni 80 in chiaramente salsa tecnoide ma con appunto un trattamento anche del noise piuttosto interessante appunto in termini insomma di shock audio e quindi di tentativi di esperimenti quindi legati all'organizzazione appunto del rumore come d'altronde il suo primo album Horde of Noise, ma noi appunto andiamo a prendere questo punicione, anche qua una punizione, e però in posizione alone, decisamente dolce, è un mondo contraddittorio e per questo insomma molto interessante quello di Vessel, che appunto andiamo a trattare con questo punicione. Thank you. Beh, probabilmente scioccato da quello che fu uno dei suoni più incredibili, appunto, che abbiamo trattato nella prima parte della trasmissione, appunto, dedicata a Shock Addizionari, questa sera 451 frammenti sonori. Scioccato Vessel da sonorità come quelle di Implog, di Martin Rev, di Snatch, ma perché no, di Laxative Soul, della Cold in generale, e di quel, insomma, fenomeno, insomma, che musicale che fu, non soltanto quello, Crisma, e appunto anche dentro quel riferimento manipolatorio, sia in termini, appunto, estetici, mediatici, che in termini anche sonori, appunto, legati al noise, come d'altronde può concludere la faccenda questa sera di questi Shock Addizionali, scioccata completamente sulla via di Damasco, Tropic of Cancer, ovvero la signorina Camilla Lobo, che con questo suo progetto riporta, insomma, indietro le lancette dell'orologio, ma facendo in questa maniera non fa che, appunto, creare anch'essa uno shock retrattivo, con suoni che ripercorrono e reinventano, insomma, quella materia fredda, glaciale, ma che, appunto, come dire, un ghiaccio bollente, ecco, ribolle dentro. E con, appunto, il suo Restless Idylls, va proprio dentro quella carne viva, ecco, potremmo dire, quella carne che si fa suono e che, appunto, insomma, si fa ancora shock, evidentemente, in un periodo in cui gli shock sono continuativi, quasi annullati uno dall'altro, la velocità, appunto, in cui avvengono queste sollecitazioni emotive continuative che abbiamo, come dire, e fermare l'orologio vuol dire anche, appunto, trovare, appunto, quello shock isolato, e quindi isolarlo musicalmente porta, appunto, a lavori anche decisamente interessanti come questo Restless Idylls di Tropic of Cancer, che conclude, appunto, questi shock addizionali di 451 frammenti sonori in compagnia di Max Macchia, ma non solo. Ho detto, appunto, inizio trasmissione, che c'è un piccolo fantasma qua dentro Radio Città Fujiko, che, insomma, mi accompagna soprattutto quando faccio trasmissioni di questo tipo. E vi saluto, vi rimando a mercoledì prossimo, salute permettendo, visto che qua, insomma, cavalca, ecco, una sorta di influenze infinite, anche qua, appunto, non si riescono a isolare, quindi non si riesce a creare lo shock definitivo per darmi malato, non proprio in maniera definitiva, ma, insomma, per qualche giorno, ma tant'è, insomma, che tenterò mercoledì di essere ancora qua. E vi saluto, appunto, Max Macchia, vi rimando, insomma, al prossimo 451 frammenti sonori, chiaramente anche a 451 intersezioni, vi rimando anche a 451 frammentisonori.noblogs.org, lo dite tutte, va bene, Tropic of Cancer, alla prossima, fate i bravi.